get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Oh, l'hai visto Pinocchio? Ma quale? Quello di Collodi? Ma no, quello di Gad Lerner. Dai, possibile che non l'hai visto? Hanno parlato di sesso e lavoro in seguito ai corsi di formazione professionale organizzati dal Comune di Bologna e finanziati dalla Comunità Europea. Sono corsi riservati a donne disoccupate e disagiate, quali le immigrate, le nomadi. Le nomadi? E che c'entra sesso e lavoro? Ma sì, perché i corsi riguardano formazione anche per le lesbiche, i transessuali. I transessuali? E da quando sono donne? Ma forse da quando si sono operate, e poi non essere limitata. No, io non sono limitata. Ma per le lesbiche, che c'entra il sesso con la formazione al lavoro? Beh, l'ho letto anche sulle prime pagine di qualche quotidiano, ma non l'ho capito bene nemmeno io. Comunque, vuoi sapere o no cosa hanno detto? Certo che voglio sentire, ma chi c'era? Titti De Simone, ad esempio. Te pareva, l'onnipresente. Beh, sai, non resiste al fascino dei riflettori. Comunque c'era anche l'onorevole Giovanardi, vicepresidente della Camera. Ma chi? Quello dei CCD? Ma sì, si potrebbe dire un ex democristiano. Ah, bene, e chi ha detto? Beh, ha detto che non era d'accordo. Sì, vabbè, non era d'accordo, ma su che cosa? Ha detto che i corsi di formazione li devono organizzare persone competenti e che è assurdo che ci siano rapporti clientelari tra il comune e le lesbiche. Ma perché? Le lesbiche stanno al comune di Bologna e sono anche loro ex democristiane? Se per questo le lesbiche stanno dappertutto. Ma non è questo il problema. Il corso per archiviste video era organizzato da Visibilia, un'associazione culturale lesbica separatista. Senti, continuo a non capire. Che tipo di rapporto clientelare può avere Visibilia con il comune di Bologna? A proposito, ma non sono quelle che da 7 anni organizzano il Festival Internazionale di Cinema Lesbico? Sì, ma Giovanardi diceva che non possono essere esperti di computer. Di computer? E che c'entrano i computer? Il corso non era per archiviste video? Stai facendo un po' di confusione. Ma non sono io, chiedilo a Giovanardi. Dice che computer e video sono la stessa cosa. Se lo dice, si sarà informato. È vicepresidente alla Camera. Sì, vabbè, patate, cipolle, è uguale. Ma a parte questa piccola ignoranza, non ce l'avrà mica con le lesbiche. Ma no, non credo. Poco prima aveva detto che è giusto che le donne siano aiutate. Ma si è accorto Giovanardi che le lesbiche sono donne? E non fare troppe domande. Ascolta che non è finita qui. C'era anche un prete. Sì, figurati. E che diceva? Ma a proposito, andrà bene un prete per parlare di sesso? Che dirà il Papa? Beh, diceva che tutto sommato era giusto fare corsi di formazione per nomadi, immigrate, transessuali, ma le lesbiche. Le lesbiche che? Le lesbiche assolutamente no. Come no? Scusa, se i corsi sono per le donne e le lesbiche sono donne, perché questi corsi non vanno bene per le lesbiche? E allora i transessuali? Senti, non lo so, io non sono né prete né vicepresidente della Camera. Va bene, ma Titti De Simone, presidente dell'Arcilesbica, che diceva? Diceva che è giusto fare corsi per le lesbiche. Oh, finalmente siamo d'accordo. Eh no, il problema di fondo è che è stato tutto un equivoco. In che senso, scusa? Beh, il corso organizzato da Visibilia è per tutte le donne. Appunto, allora le lesbiche possono partecipare. Ah, ma allora non hai capito. Titti De Simone insisteva col dire che quel corso per archiviste video era solo per le lesbiche. Sai, giusto per dire le solite cose. Sì, vabbè, che tipo di documentazione bisogna portare per dimostrare di essere lesbiche? Esiste uno speciale patentino? E poi, scusa, rilasciato da chi? Ma che dici, il patentino? Non fare casino anche tu come Titti. L'unico requisito è essere donna. Senti, io non ho capito ancora niente. Se i corsi sono per le donne e dovevano essere organizzate da persone competenti, allora perché Visibilia non va bene? Non avrà mica ammesso al corso gli uomini? Ma quando mai? Allora, forse c'erano rapporti clientelari. Ma quando mai? Hanno detto forse che le lesbiche devono essere discriminate? Ma figurati, pensato magari sì, ma detto no. Persino Giovanardi ha detto che il Parlamento è pieno di omosessuali, apprezzati per il loro lavoro e non discriminati per le loro scelte sessuali. Senti, ma Giovanardi vive in Italia? Certo che vive in Italia, è vicepresidente della Camera. Ah, allora sì che siamo a posto, ma scusa, a questo punto, la trasmissione, ma che l'hanno fatta fare? A questo punto non lo so nemmeno io che l'ho vista. Scriviamo a Gad Lerner, magari lui lo sa e ce lo spiega. Buonasera a tutte voi, da Laura, Deborah e Caterina. Quanto avete appena ascoltato è una nostra sintesi, speriamo abbastanza ironica, sulla vicenda di Visibilia e del corso per archiviste video organizzato a Bologna dall'associazione. L'unico aspetto positivo che se ne può cogliere è la pubblicità involontaria che è stata fatta al Festival del Cinema Lesbico Immaginaria, organizzato ogni anno da Visibilia. Quest'anno, dal 25 al 28 febbraio, si terrà presso il Cinema Nosadella di Bologna la 7ª edizione. Per informazioni potete telefonare ogni mercoledì dalle 18 alle 21 allo 051 263 592 oppure potete consultare il sito internet http://www.comune.bologna.it/bologna/asclb. A proposito, avete già provveduto a comprare un regalo di Natale alle vostre amiche? Se la risposta è no, perché non contribuire all'autofinanziamento del festival? Mandando una mail all'indirizzo asclb@iperbole.bologna.it potrete mettere nel pacco regalo un magnifico abbonamento a tutte le proiezioni del festival. Credeteci, chi lo riceverà ve ne sarà estremamente grata. E se non avete un computer, il numero di telefono è sempre lo stesso, 051 263 592. Ed ora, The Way, di Michel Ndegyosillo. Jesus killed the blind man, so that he could see the evils of the world. Perchance blind, just by dark thought, overcome by the light. Maybe Judas was a better man, and Mary made a virgin just a safe face. I too am so ashamed on my bended knees, praying in my pretty white jeans. They say, you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question? Your followers can get me. Your words are used to enslave me. Give my prayer. My sweet Jesus. La vita artistica della fine del secolo scorso ha visto la presenza forte e sconcertante della novellista e poeta Renée Vivienne. Pur essendo nata a Paddington, in Inghilterra, nel 1877, con il nome di Pauline Mary Tarn, René ha scritto sempre in francese. Vissuta a Parigi fino ai 9 anni, ovvero fino alla morte del padre, Pauline con sgomento si vide rimandata in Inghilterra dalla madre, che, nel tentativo di appropriarsi della sua eredità, cercò di farla dichiarare malata di mente. Per fortuna la corte, che la doveva giudicare, ne prese la custodia e la protesse fino a quando, a 21 anni, Pauline poté ritornare in Francia. Una volta a Parigi, e come simbolo della sua rinascita, cambiò il suo nome in Renée Vivienne e, dopo aver pubblicato un paio di libri utilizzando la versione maschile del nome Renée, scelse definitivamente di firmare le sue opere indicando il suo genere sessuale. A Parigi incontrò e divenne l'amante di Nathalie Barney, un'ereditiera americana famosa per il suo sgargiante stile di vita lesbico. Le opere di René sono ispirate dalle sue amanti, prime fra tutte Nathalie e Violet Scilleto, e dalle poete Pierre Louis e Sappho. Violet Scilleto, amica e amante dell'adolescenza di René, compare nel lavoro della poeta attraverso ricorrenti immagini di violette e del colore viola. Morì nel 1901 di tifo, appena dopo essere stata lasciata da René per Nathalie, e contribuendo a permeare l'opera di René del senso della morte. Sappho influenzò moltissimo lo stile poetico di René e divenne per lei un'icona. René tradusse in francese moderno le sue opere ed andò con Nathalie a Lesbos nel tentativo di ricostruire sull'isola l'antica comunità artistica di donne. René pose formalmente fine alla sua relazione con Nathalie nel 1901, anche se ebbe con lei continui ritorni di fiamme. La sua nuova amante, la baronessa Hélène de Zulène, rimase accanto a René per diversi anni, fino a quando nel 1906 non troncò il loro rapporto. Dopo Hélène, René ebbe numerose relazioni con altre donne, accompagnate da una profonda amicizia con Colette. Nel 1909, dopo ben 2 tentativi di suicidio, René morì di alcolismo e anoressia, a conclusione di una vita vissuta come un incubo gotico e che veniva da lei definita un crimine. Attualmente esiste pochissimo della sua opera tradotta in inglese e noi vi proponiamo Roses Rising, il levarsi delle rose. Mia bruna dagli occhi d'oro, il tuo corpo d'avorio, la tua ombra ha lasciato riflessi luminosi nella stanza, sopra al giardino. Il limpido cielo di mezzanotte, sotto le mie palpebre chiuse, ancora risplende. Sono ubriaca da così tante rose, più rosse del vino. Lasciando il loro giardino, le rose mi hanno seguito. Bevo il loro breve respiro, respiro la loro vita. Tutte loro sono qui. È un miracolo. Le stelle si sono levate, in fretta, attraverso le larghe finestre dove l'oro fuso si riversa. Ora, tra le rose e le stelle, tu, qui nella mia stanza, facendo scomparire l'abito e la tua nudità luccica, il tuo indescrivibile sguardo si posa sui miei occhi. Senza le stelle e i fiori, sogno l'impossibile, nella fredda notte. Dal 1901 al 1909, René scrisse 14 volumi di poesie, 3 volumi di racconti e 2 novelle. La sua opera è notevole per la completa assenza di barriere al suo esprimersi come lesbica. Scrisse un unico romanzo, Donna m'apparve, nel 1905, che rappresenta la trasposizione fantastico-autobiografica della sua storia d'amore con Nathalie. Nel salutare René, ringraziando le autrici del sito internet L'Isola di Lesbo, www.saffo.com, dal quale è stato tratto gran parte del materiale su René Vivienne, vi proponiamo un brevissimo ed emblematico brano tratto da Donna m'apparve. Petrus attecchiò il viso untuoso in una espressione solenne. Si sarebbe detto un fachiro intento a partorire una profezia. Contemplò a lungo l'androgino prima di enunciare in tono fatale: «Signorina, state cercando invano di sottrarvi al fascino irresistibile della seduzione maschile. Sono sicuro che la vostra carriera amorosa finirà tra le braccia di un uomo». Misi freno alle violente parole che sarebbero sgorgate da quelle labbra e risposi profondamente sconvolta: «Credo che sarebbe un'aberrazione contro natura, signore. Stimo troppo la nostra amica per crederla capace di una così anormale passione. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del Martedì Femminista Autogestito, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ora qui in radio allo 06 491 750 oppure lasciate un messaggio, inviate un fax allo 06 68 64 201. Il centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1A si è momentaneamente spostato in un'ala del Buon Pastore, con ingresso da via della Lungara 19. Vista la situazione precaria di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, non vi possiamo assicurare più la nostra presenza al Buon Pastore il lunedì, ma il telefono fax è sempre in funzione. Per la musica lesbica indipendente vi proponiamo The Clan del duo Castleberry Dupree, tratto dal CD Hot Corn in the Fire, che abbiamo appena ricevuto dalle donne di Tikala, la casa tedesca di distribuzione di musica indipendente delle donne. Sentite come la famosa femminista americana Angela Davis presenta questo duo. Judith Castleberry e Jacquie Dupree rappresentano una rivoluzione musicale. Per più di 20 anni hanno articolato tramite la loro musica la rabbia, l'amore, la pena, la gioia, le richieste delle donne, le cui voci sono state storicamente ignorate e poste sotto silenzio. Queste sorelle sono delle messaggere ed ogni volta che salgono sul palcoscenico ed impugnano il microfono, la loro presenza pregnante si ingigantisce. Le loro esibizioni dal vivo sono caratterizzate da un'intensità rituale. Andando via ci si sente con più potere e reinvigorite. Nelle loro voci c'è l'eco amplificato della convinzione che tutte le forme di oppressione del mondo sono inaccettabili e che nessuno è libero finché non lo saremo tutti. Il brano The Clan è dedicato ai neri vittime del Ku Klux Klan. Countryside is cold and still. There were three crosses on the hill. Each one wore a burning hood to hide his rotten core. And I cried, whoa. uscite dal mondo. L'esordio del Ministero delle Pari Opportunità, diretto dalla neo ministra, o come preferisce essere chiamata signora ministro, Laura Balbo, riguarda l'istituzione di un ufficio per i diritti gay per consentire, citiamo testualmente, che le tematiche delle cittadine e dei cittadini omosessuali siano rappresentate in una commissione di consulenza per le riforme istituzionali e per i diritti civili. Purtroppo l'unica associazione gay o lesbica invitata all'incontro preparatorio per la costituzione della commissione è stata, come al solito, l'Arcigay, e l'unico nome che i giornali hanno fatto per l'incarico di consulenza è quello di Franco Grillini. Speriamo che un'iniziativa antidiscriminatoria non si risolva in un'azione discriminante. E qui ci riferiamo a tutte le altre realtà del variegato mondo omosessuale, prima fra tutte il lesbismo separatista. Avrà molto da fare la neopresidente ebrea della Confederazione Svizzera Ruth Defruss, in un paese che solo nel 71 ha dato alle donne la possibilità di votare a livello nazionale, anche se ha recuperato presto, raggiungendo ad oggi il 20% di presenza femminile all'interno delle due camere. Permane comunque una notevole differenza salariale, circa il 25-30% tra uomini e donne. E l'onere del lavoro domestico è ancora una prerogativa femminile. D'altra parte in Italia le donne votano dal 46, ma le percentuali e le discriminazioni sono le stesse, anzi peggiori, se qualcuno ancora gioisce per le sei ministre del governo D'Alema. Auguriamo buon lavoro a Ruth Defruss, che ha commentato la carica ricevuta dicendo: «Mi dispiace di non avere anche la pelle nera, così avremmo riscattato tutte le discriminazioni in un sol colpo». Eh no, cara Ruth, avresti anche dovuto essere lesbica. A proposito di discriminazioni, Ellen DeGeneres ed Anne H., protagoniste di uno dei più famosi coming out, hanno dichiarato di essersi pentite della loro rivelazione, perché ha danneggiato la loro carriera. In questo modo hanno sfatato il mito della tolleranza di Hollywood, confermando invece quello della sana America bigotta, conformista e puritana. Omosessuali si nasce o si diventa? Continua questo tormentone anche all'interno della trasmissione in genere dedicata agli animali, o forse proprio per questo. In Super Quark di Piero Angela è stato dedicato un servizio alle origini della omosessualità che, partendo dagli studi di Kinsey, ha riproposto il dilemma tra origine genetica e contesto ambientale. La novità è che per gli omosessuali maschi è stata osservata la presenza di una ragione del cromosoma X in una percentuale molto alta. Per le lesbiche, grazie alla DEA, sembra che non sia stato scoperto ancora niente. Però resta una domanda: a quando una trasmissione dedicata alle origini della eterosessualità? Puntata vi abbiamo ricordato l'imminente appuntamento con Immaginaria. Nella sesta edizione il film vincitore nella categoria narrativi è stato il meraviglioso Fire, premiato anche a Parigi e in altri festival di cinema internazionali. È apprezzato ovunque per le tematiche trattate, per le scenografie e per l'alto livello tecnico della regista Deepa Mehta. Ovunque, ma non nel paese di origine, l'India. Nonostante la ferrea censura indiana ne abbia permesso la proiezione, a New Delhi i soldati di Shiva hanno semidistrutto due sale cinematografiche che proiettavano il film, mentre a Bombay ne è stata addirittura vietata la proiezione. Gli integralisti indù, forti di una legge che vieta l'omosessualità ereditata dal dominio britannico, si sono sentiti autorizzati a compiere atti vandalici, forse anche perché una delle due protagoniste del film, Sheva Nazmi, nella vita è un esponente dell'opposizione al governo nazionalista indiano. Don't Lie del duo lesbico The Mamas, mentre la musica di sottofondo di questa trasmissione è della pianista lesbica tedesca Inge Latz. Oggi volevo parlarvi di un progetto francese, TGTL Adèle Ciné, la très grande télévision lesbienne. Mais oui, la grandissima televisione lesbica. A parte la tipica grandeur francese, volevo proporvi questo progetto perché mi sembra particolarmente interessante sottolineare come le lesbiche siano dappertutto, si occupino di tutto e vogliano mantenere memoria del fermento e dell'evoluzione del proprio universo. Dunque, questo progetto di produzione e diffusione di video è stato presentato a Parigi nel 1995, nel corso del Festival del Cinema Lesbico parigino Quand les lesbiennes font du cinéma. Obiettivo: filmare tutti gli avvenimenti che riguardino le lesbiche, formare un archivio di tutto ciò che accade nel mondo lesbico e infine fare da cassa di risonanza a tutte le iniziative culturali, politiche, sportive che arricchiscono la nostra agenda. Il gruppo della TGTL del Ciné è nato da una cellula del gruppo di Cinefable, l'associazione che si occupa dell'organizzazione del Festival del Cinema Lesbico Parigino. Il loro lavoro si articola in più contesti, dalla creazione di un archivio di tutti i dibattiti fatti nel corso delle varie edizioni del Festival Parigino, ad incontri e dibattiti sulla politica femminista di ieri e di oggi, alla realizzazione di documentari, alla gestione di spazi video per proporre iniziative proprie. Infatti ogni anno nell'ambito della manifestazione Quand les lesbiennes se font du cinéma, la TGTL gestisce uno spazio per mostrare le proprie realizzazioni video, ma ha anche come scopo la promozione di iniziative fatte da gruppi e da singole. Inoltre, per mostrare tutte le immagini raccolte, rigorosamente montate e commentate, la TGTL diffonde due volte l'anno il giornale video di attualità lesbiche. Ogni giornale video è realizzato in collaborazione con un'associazione lesbica differente. Fino ad oggi hanno collaborato Bagdam Café di Toulouse, Mitilen Karaté di Parigi, che si è occupata di filmare Gay Games di Amsterdam, e Prochoa, che ha documentato la marcia lesbica di New York. Per il numero 3 del giornale video, anche l'Italia è stata annoverata nell'ampio panorama delle attività culturali lesbiche, con un servizio sul già citato Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginario. Il giornale video è strutturato proprio come un telegiornale. C'è un sommario che presenta i servizi raccolti e poi i vari documentari. Nonostante ciò, leggiamo dal bilancio fatto per le iniziative del 98 che l'equipe è consapevole di non riuscire ancora a fare sufficiente opera di informazione, causa il mancato coinvolgimento nell'ambito del coordinamento nazionale lesbico francese. Ambiziose sono comunque le prospettive per il futuro di questo progetto. Una delle responsabili ha dichiarato che l'idea di collaborare con le varie associazioni è stato un lavoro molto arricchente ed interessante e che quindi sarà sicuramente un obiettivo da allargare anche ad altre realtà, sia di gruppo che individuali. C'è già un'idea di collaborazione per il 2000 con il progetto Immaginaria Bologna 2000, capitale della cultura. E inoltre, visto il grande successo ottenuto nello spazio gestito durante il Festival Parigino, è stato proposto di individuare altri spazi nell'ambito ad esempio dell'MDF, il Movimento delle Donne Francesi, e il Centro di Documentazione Simone de Beauvoir. Ma la diffusione nelle loro intenzioni non dovrebbe fermarsi alla ricerca di spazi, dovrebbe tendere anche ad una proposta all'esterno del materiale raccolto, tramite per esempio il circuito delle librerie. Per tutte le interessate, vi comunico che la TGTL ha anche un suo sito internet, http://www.ai.unib-parisotto.fr/tilde-ebrun/tgtl. Don't make me pay because I Ed era I Really Like You di Melissa Etheridge. Come tutte sapete, Melissa è una famosa cantante rock che ha pubblicamente dichiarato di essere lesbica. Sarà per questo che spesso ci e vi tiene compagnia durante le nostre trasmissioni? Se vi ricordate, è con lei che abbiamo iniziato la nostra avventura con voi. A proposito, il 2 dicembre è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, ha compiuto un anno. Auguri! Visto che siamo in tema di auguri, Caterina, Debora e Laura non possono fare altro che augurarvi un lesbo fantastico Natale. Ciao! Ciao! Ciao! Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.